Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 10 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo delle reazioni dei mercati al voto amministrativo italiano e anche al voto parlamentare francese. Per quello che riguarda invece i temi più classici, nel senso che ce li stiamo trascinando da settimane, torneremo a occuparci delle banche venete, perché si continua a lavorare ad una soluzione di sistema sul modello un po' spagnolo di quanto fatto dal Banco Santander per salvare il Banco Popular. Il Santander ha comprato il Banco Popular per un euro, ma si è impegnato a versarne 7 miliardi per ricapitalizzarlo. Le due banche venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, per poter avere via libera da Bruxelles sull'aumento di capitale pubblico con soldi pubblici, devono trovare un miliardo di capitali privati per un'operazione che vale complessivamente 6,4 miliardi, di cui appunto 3 miliardi e 700 milioni sarebbero a carico del Tesoro, e un altro miliardo e 600 milioni è già previsto come conversione delle obbligazioni subordinate poi dal Fondo Atlante, manca un miliardo ancora. E su questo si sta ragionando di un'operazione di sistema che coinvolgerebbe in primo luogo Unicredit e anche Intesa San Paolo. Domani c'è un consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo proprio, e c'è anche quello della Popolare di Vicenza di Veneto Banca. Si è ipotizzato anche un interessamento e una chiamata per Banca Mediolanum. Massimo Doris ha detto: se tutti parteciperemo anche noi, e anche di Unipol Banca, ma il vero nodo è quello di Unicredit e Intesa. Tra l'altro, la cosa importante è che è vero che qui verrebbe richiesto 1,2 miliardi, ma se dovessero saltare le due banche, il danno sarebbe 10 volte superiore, cioè calcolabile intorno ai 12-11 miliardi di euro. Quindi mi rendo conto che tirare fuori 1,2 miliardi da parte delle banche per mettere in Veneto Banca e Popolare di Vicenza sia qualcosa che non vogliono in questo momento, dopo le operazioni che ha fatto anche Unicredit di ricapitalizzazione, Intesa di pulizia. Però in questi casi bisogna vedere qual è il male minore. Il male peggiore sarebbe il fallimento delle due banche, con un danno sull'intero sistema per calcolato tra gli 11 e i 12 miliardi di euro, quindi 10 volte superiore a quello che sarebbe l'esborso. Comunque di questo parleremo quindi della reazione dei mercati, delle due banche italiane, delle due banche venete, in una giornata in cui la borsa sostanzialmente è negativa. Milano di uno 0,70, mentre Parigi perde l'1,20, Francoforte lo 0,90, Londra meno 0,20, Dow Jones meno 0,15%. Da noi vanno bene quanto oltre a Saipem, che guadagna il 5%, UbiBanca dopo i diritti più 3,80, Poste Italiane più 1,70, Unipol più 1,70, Generali più 1,5, Eni più 0,80. Molto male Steam Microelectronics, meno 8,90, Leonardo meno 3,40, Ferrari pure e anche Italgas. Il 2,70 lo perde Case New Holland, il 2% Moncler, Recordati e Prismian. Banco BPM meno 1,80 e devo dire Biper Banca meno 1,70, Banca Mediolanum meno 1,70. Le banche che abbiamo citato, Unicredit e Intesa San Paolo, sono poco mosse. Invariata Unicredit meno 0,20%, Intesa San Paolo. Ci occuperemo anche nella seconda ora del programma di quanto è successo invece negli Stati Uniti all'indice Nasdaq, quello dei titoli tecnologici, che in questo momento perde l'1%, perché c'è molto nervosismo dopo che venerdì il Nasdaq complessivamente ha perso il 2%, ma soprattutto hanno avuto dei cali forti, visto la capitalizzazione di borsa, sia Facebook che Amazon che Apple che Google che Netflix, cioè i principali operatori della rete, cali tra il 3 e il 4%. L'indice resta alto, vale Nasdaq il 30% in più di un anno fa, a fronte di un 15% in più che vale l'S&P 500, cioè l'indice dei titoli più industriali, diciamo, di Wall Street. Però alcuni evidenziano la possibilità che si sia arrivati, non dico una bolla, ma un tetto su questi titoli. Amazon e Google hanno fatto viaggiano comunque a un 36% e 32% in più rispetto all'anno fa, tutti gli altri hanno da tempo superato come capitalizzazione quelle dei colossi industriali. Lo dico perché, oltre che parlare alle 18:10, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La famosa incertezza politica che aveva guidato i mercati fino a qualche giorno fa sembra ormai archiviata. Per gli investitori, infatti, i segnali arrivati da Francia e Italia vanno nella direzione giusta. Parigi ha trovato una leadership forte, si avvia ad avere un Parlamento con una maggioranza schiacciante e l'Italia sembra aver allontanato lo spettro da elezioni di corsa e al buio. I mercati questo volevano e quindi ora guardano oltre e tornano a guardare dentro se stessi e scoprono che forse c'è una bolla sui titoli tecnologici, peraltro la stessa bolla che ha finora sostenuto la galoppata di Wall Street e di riflesso molte altre piazze finanziarie europee e non solo. Già venerdì l'indice del Nasdaq, la borsa dei titoli tecnologici, è ceduto l'1,8% sotto i colpi di un report di Goldman Sachs che per primo ha denunciato il rischio di bolla nei titoli tecnologici. Oggi non è andata meglio, anche i futures sull'indice del Nasdaq volgono al brutto. Questi titoli, va ricordato, rappresentano come aggregato 600 miliardi di capitalizzazione di mercato e pesano per circa il 40% dell'intera performance dell'S&P 500 Wall Street. Sono in corso vendite consistenti su Apple e sui cosiddetti titoli FANG, Facebook, Amazon, Netflix e Google. Che i corsi dei big tecnologici non fossero in linea con i fondamentali considerati normalmente era noto da tempo, ma ora forse il vento è girato davvero e coinvolge tutte le piazze con un colpo ad esempio a Samsung in Asia, a Infineon, Dialog Semiconductor, SAP a Francoforte e ASML ad Amsterdam. In Italia la più colpita è ST Microelectronics. Nel momento in cui la Fed e altre banche centrali guardano un aumento dei tassi imminente, la correzione dei listini tecnologici potrebbe risultare più veloce e assai più incisiva del previsto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E appunto il tema dei titoli tecnologici è quello che trascina anche al ribasso anche ST Microelectronics. A chi mi chiede quando parlerete, parleremo nella seconda ora delle reazioni dei mercati ai voti, voto amministrativo in Italia e voto parlamentare diciamo in Francia, però lo dico prima che inizino al 349-238-6666 che è il numero per SMS e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e c'è la diretta anche su Facebook. Non è un giudizio di valore, il fatto che però, e questo lo dicono tutte le agenzie internazionali, in Francia Macron ha avuto un'affermazione anche netta, ancora più netta. In base ai risultati del primo turno, i due terzi andrebbero al neopresidente e al retro Front National, che raccoglierebbe solo il 13% dei consensi su base annua e manderebbe solo 20 esponenti al ballottaggio domenica prossima. E il fatto che in Italia vi sia stato un arretramento del Movimento 5 Stelle, escluso dai ballottaggi di tutte le principali città in cui si votava, Palermo, Genova, Parma, Verona, L'Aquila, Taranto, Catanzaro, ha ridotto lo spread italiano tra i titoli italiani e quelli tedeschi a 175 punti, che è il minimo da gennaio. I rendimenti del BTP sono scesi al 2%, la nostra differenza con la Spagna scende a 60 punti e il tasso del BTP a 10 anni è ai minimi da gennaio dopo l'esito del voto. Questo non è un giudizio di valore su 5 Stelle, non 5 Stelle, sul PD, su Forza Italia, sulla Lega, è semplicemente raccontare quella che è stata la reazione dei mercati, tutto qui. Poi uno può pensare che sia sbagliata, che sia giusta, ma il dato di fatto è questo. Vi sono stati anche forti acquisti di titoli di Stato sulla scia, diciamo appunto, del battuto d'arresto del 5 Stelle, e si è tenuta anche un'asta di botta un anno. Il tasso è al minimo storico, meno 0,35%, cioè per prestare soldi allo Stato italiano si accetta di perderli dopo un anno a livello nominale. e di portare a casa lo 0,35% in meno. Oggi il Fondo Monetario Internazionale, tra l'altro, ha rivisto anch'esso le stime sulla crescita per l'Italia al rialzo. Dovrebbe fare più 1,3% il nostro PIL contro il più 0,8% delle stime precedenti, ma rallentare, come prevedono un po' tutti, nel 2018 all'1%. E poi dice il Fondo Monetario che l'alto livello di debito lascia l'Italia esposta agli shock esterni. Ok, un aggiustamento graduale, ma un piccolo surplus, cioè addirittura un avanzo, non un deficit, aiuterebbe. E che le banche devono essere ambiziose e credibili sul taglio dei non performing loans, delle sofferenze bancarie che hanno in pancia. E il cuneo fiscale potrebbe essere lo strumento, la riduzione del cuneo fiscale per la crescita e l'occupazione. Occorre accelerare la riforma dei valori catastali, serve una moderna tassa sugli immobili. Anche il Fondo Monetario la pensa come Bruxelles, spostare la tassazione dal lavoro alla rendita, diciamo così, per quello che riguarda i suggerimenti che arrivano. La produzione industriale italiana nel frattempo segna un più 1%, e devo dire che un dato particolarmente positivo è l'andamento dell'export, perché è il sud a guidare la crescita dell'export italiano nei primi tre mesi dell'anno, più 4,4%. Ora è chiaro che in valore vale meno, però come incremento il più significativo è appunto quello del sud. Poi l'Italia centrale più 2,5%, più 1,8% l'incremento del nord-ovest, più 1,4% il nord-est. Anche di questo si è parlato oggi all'Asso Lombarda, che è la principale delle associazioni di Confindustria a livello territoriale, riunisce le imprese della provincia di Milano, che ha eletto Carlo Bonomi presidente, unanimità praticamente su 685 voti, 683 favorevoli, un contrario e un astenuto. Presenti oggi all'assemblea anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia e il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Su questo vorrei ascoltare prima Calenda, poi ascoltiamo anche gli altri interventi, perché Calenda ha detto il taglio dell'IRPEF ha un senso solo se fa ripartire i consumi, però Calenda ha anche detto che non potrebbero non essere confermati tutti gli incentivi dell'industria 4.0, che attualmente si basa soprattutto su iperammortamenti, superammortamento al 140% e iperammortamento al 240%. Io per esempio non so se la scelta di tagliare l'IRPEF non ci riconduce, che tutti adotteranno immediatamente, perché ovviamente è molto popolare, però l'IRPEF ha un senso se tu la puoi tagliare di un livello tale che veramente fai ripartire i consumi. O se invece non conviene insistere nel tagliare l'IRAP, nel continuare a lavorare sui costi dell'energia, cioè nel dare competitività a quelle imprese che possono poi andare fuori, esportare e garantire e garantirsi con la domanda internazionale una crescita. Allora, io penso che su questo noi dobbiamo bisogno di un piano lungo e abbiamo bisogno di un'altra cosa parallela. Abbiamo bisogno di un rafforzamento della governance e dei meccanismi di messa in sicurezza dell'Italia. Dunque, noi abbiamo adesso alcune cose importanti, la SEN, la legge sulla concorrenza, la legge sul diritto fallimentare, che è molto molto importante, e fare una finanziaria seria, che non sarà una finanziaria, come già detto, lacrime e sangue, ma sarà una finanziaria seria che deve indirizzare le risorse poche che ci sono verso continuare il percorso che abbiamo fatto con Industria 4.0, rafforzandolo, rendendolo strutturale, che non vuol dire che tutti gli incentivi verranno rinnovati, perché non funziona in questo modo, non è che, sennò non sono incentivi, sono, diciamo, tagli fiscali permanenti, però certamente in quella direzione lì, cioè nel lavoro sull'offerta. Io sono molto convinto che populismo e spesa pubblica incontrollata sono causa e effetto e che stanno insieme alla base di quello che oggi è un elemento che può minare la forza e la consistenza del Paese. È ben dubbio, almeno per me non lo è, che la proposta di reddito di cittadinanza sia figlia degli anni di spesa incontrollata, di spesa pubblica incontrollata, per esempio nel Mezzogiorno. Io penso che siano è il figlio di quelle politiche, di quella idea, per cui si possono trovare scorciatoie. Calenda ha parlato anche delle date delle elezioni anticipate, queste date date come numeri dell'otto. Chi mi scrive: lei tira la volata a Calenda? No, guardi, non mi sembra che Calenda si sia candidato a niente, poi vedremo cosa farà. Ho detto più volte, lo ribadisco, che mi sembra un ottimo ministro. Ogni tanto si può anche dire quando uno può sembrare un ottimo ministro, e non lo dico solo in base a quello che vedo e alla competenza che gli riconosciamo. La maggior parte degli industriali, degli operatori che abbiamo invitato e consultato sono tutti concordi nel dire che Calenda è uno che perlomeno conosce la materia di cui parla e si muove con pragmatismo su questo. Ma perché non si può dire ogni tanto? Poi non mi sembra che abbia un partito. Comunque, detto ciò, Calenda ha detto anche che le date delle elezioni vengono utilizzate come numeri del lotto. Queste sono le cose su cui dobbiamo lavorare, e da qui alla fine della legislatura, che intanto non si capisce mai quando è, perché diciamo in origine era febbraio-marzo, a un certo punto sembrava aprile dell'anno scorso, poi è arrivata a giugno, poi è arrivata a settembre, poi adesso stamattina leggo novembre, cioè in mezzo al ciclo di bilancio. Cioè, ormai mi pare che siano i numeri all'otto, con tutta franchezza. E del tema ha parlato nel suo intervento appunto all'Assemblea di Assolombarda anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, che ha chiesto all'esecutivo Gentiloni di non arretrare sulla stagione riformista, ma di andare avanti. Vogliamo dirlo al ministro Calenda, sappiamo che lo condivide, ci siamo confrontati su questo. Parlare della vita del Paese, del futuro della sua economia, e parlare dei cittadini italiani, del suo futuro. E allora noi ci aspettiamo che la stagione riformista del governo Gentiloni non arretri, ma vada avanti. E allora che si proroghino la questione superammortamenti e iperammortamenti, che si vada avanti con la questione degli energivori, perché ci abbiamo messo mesi e il ministro si è speso tanto per portare a casa, diciamo, degli elementi, però ci siamo rammaricati che nello scorso Consiglio dei Ministri questi elementi non sono passati. Questo è vero. E allora su questo noi dobbiamo spingere affinché accade, come deve accadere, che bisogna fare in modo che i 47 miliardi di euro di investimenti pubblici vengano scaricati a terra in questo Paese, perché la burocrazia non può bloccare quello che invece la politica realizza. Ancora sul tema non tanto delle riforme ma dell'obiettivo, visto che si parlava nell'associazione industriale di Milano, l'obiettivo di portare a Milano l'EMA, cioè l'Agenzia del Farmaco Europea, molte volte ne abbiamo parlato, ricadute importantissime, su questo è intervenuto il presidente di Confindustria Boccia. L'EMA a Milano non è una questione di Milano e basta, ma è una questione per il Paese, una questione di tutti noi, come fu l'Expo. L'EMA a Milano diventa una conquista di tutti noi, come abbiamo fatto per l'export. E bravo Carlo quando ci ricorda che la questione di stile è una questione determinante, perché a noi, in Confindustria, a me e Carlo, quando frequentavamo i giovani imprenditori, ci hanno insegnato che delegittimare gli altri significa delegittimare se stesso, rispetto dell'altro, anche quando c'è divergenza. È una questione di stile, un modo di essere, una questione di metodo e di merito. Carlo, la tua storia, la tua formazione è parte di ciò che siamo ed è il valore del nostro futuro lavoro insieme. Lavoreremo per le soluzioni senza rinfacciarci sconfitte e senza esaltarci dalle vittorie, perché, come diceva Jean Monnet, essere stati è una condizione per essere. Ringraziando Dio, noi lo siamo stati. Su questo dobbiamo aprire un fronte con le banche per fare in modo che valutino i cosiddetti parametri qualitativi, spingere affinché il progetto di Borsa Italiana Elite, a cui abbiamo contribuito non poco, diventi un grande progetto paese e partecipano tante imprese italiane, in modo da farlo diventare un progetto paese. Se solo partecipassero 1000 imprese, se ciascuna di queste attirasse 5 milioni di euro nel suo capitale, staremmo parlando di 5 miliardi di euro che diventano investimenti grazie agli iperammortamenti e superammortamenti e diventa un progetto Paese. Allora, qualche ascoltatore mi scrive: beh, allora ecco, vede, lei è d'accordo con Calenda perché c'è un piena sintonia con la Confindustria. No, nel senso che a me piace Calenda perché lo conosco da tanti anni, ha avuto un ruolo importantissimo nelle missioni di internazionalizzazione della Confindustria a suo tempo e l'ho visto lavorare. Dopodiché il fatto che piace l'industriale l'avevo anche anticipato. Non ho trovato industriali in questo periodo che mi dicano che Calenda è un incompetente e non ha ben chiare le priorità piuttosto che gli interventi a pioggia per l'industria italiana. Dopodiché, no? a me piace Draghi, mi piace Calenda, ognuno ha i gusti che vuole. Detto questo, sempre sull'IPEF è intervenuto però la riduzione dell'IPEF il neopresidente degli industriali milanesi, mi riferisco appunto a Bonomi. Sentiamolo su questo al microfono della nostra Anna Marino. La mia posizione è di scegliere quello che serve al paese. Credo però che ovviamente sarebbe facile per me scegliere le agevolazioni che vanno a favore delle imprese, ma se non teniamo conto anche dei consumi non facciamo il nostro lavoro. Io credo che si debba trovare le risorse necessarie. Capisco che fare tagli IRPEF costa, ma abbiamo una spesa pubblica inefficiente, pletorica. Secondo me si possono trovare le risorse per mettere a fattor comune un taglio dell'IRPEF importante che rilanci i consumi. Questo non vuol dire abbandonare ovviamente quelli che sono le attenzioni alle imprese. Dobbiamo fare un pacchetto complessivo, un pacchetto che veda il futuro del paese. Allora, prima di arrivare al tema di apertura, la reazione dei mercati, le attese del mercato sulle banche venete, vorrei trattare un ultimo tema in breve. Oggi si è parlato molto di infrastrutture, un tema a cui noi siamo legatissimi anche perché abbiamo tutto un servizio di informazione per il mondo dell'autotrasporto, cioè di chi trasporta le merci su gomma in questo paese. È una tappa di avvicinamento quello che è tenuto oggi verso il G7 dei trasporti, che è in programma a Cagliari il 21 e 22 giugno. La giornata di confronto oggi riguardava, il titolo era Trasportiamo l'Italia, la strada della sostenibilità, organizzata con AISCAT, WIRNET, TIR e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il ministro Del Rio, Graziano Del Rio, ministro delle Infrastrutture, ha fatto anche il punto, che mi sembra importante, sulla posizione italiana di fronte alle misure presentate dalla Commissione Europea in tema di contrasto al dumping sociale, e quindi sappiamo cosa vuol dire nel mondo dell'autotrasporto: camionisti sloveni, camionisti dell'est che vengono a lavorare da noi, e non c'è solo questo. Sentiamo Del Rio al microfono il nostro Giorgio Stamatopoulos. La posizione è molto chiara, io l'ho espressa, abbiamo fatto un'alleanza in Europa anche grazie all'iniziativa italiana contro il dumping sociale, per il rispetto delle regole, contro liberalizzazioni che possono avvenire ulteriormente solo se tutti rispettano le regole dei diritti dei lavoratori, del diritto del riposo e della sicurezza, che sono elementi assolutamente indispensabili. Quindi l'Italia ha una posizione molto molto chiara, che peraltro è stata ribadita anche recentemente nel documento che abbiamo presentato l'8 di giugno in Lussemburgo, e della posizione della gran parte dei paesi, diciamo, dell'Europa occidentale. Poi i paesi dell'Europa orientale hanno un'altra opinione, ma il confronto è molto aperto e la posizione della Commissione è un buon punto di partenza, credo, va nella direzione abbastanza giusta. Allora, questo è il racconto in sintesi della giornata. Partiamo con gli approfondimenti, lo facciamo dopo il meteo e la pubblicità, partendo proprio dalle banche venete. Chi mi dice ma basta? No, basta no, perché qui c'è un intero territorio che ha già avuto bruciati mal contati 11 miliardi di euro di risparmi, di investimenti fatti, quindi bruciati dall'andamento dei titoli in primo luogo, per i prezzi con essi collocati. Se non si trova una soluzione a breve, il danno non sarà di 1 miliardo per il sistema bancario, ma sarà di 11-12 miliardi. Ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Focus Economia. Diciassette e trentotto minuti. Mi scrive giustamente un ascoltatore: ma può spiegare che cosa può importare ad un cittadino comune se il sistema bancario deve pagare molti miliardi o pochi miliardi? Vediamo se riesco a spiegarlo, perché evidentemente non era chiaro. Se le banche sane quindi Unicredit Intesa in primis, poi Mediolanum, Unipol, chi verrà chiamato, non riescono a fare questa, diciamo, a mettere questo cordone di garanzia attorno, cordone sanitario, e dovessero saltare Veneto Banca e Popolare di Vicenza, avremo un costo per il sistema intorno agli 11 miliardi. Guardate che lì si va su bail-in, per cui anche i correntisti sopra i 100.000, oltre che tutti gli altri. Ma soprattutto, visto che queste banche hanno comunque circa 30 miliardi di prestiti alle piccole e medie imprese del territorio, è chiaro che quelle sarebbero obbligate a rientrare subito sui finanziamenti, con conseguente rischio di fallimento per molte imprese, di aumento della disoccupazione e di licenziamenti. Allora, se questo non è abbastanza per capire purtroppo quanto sistemica è la banca, cioè la banca non è un'impresa normale, se viene giù una banca, lo dico col massimo rispetto per tutte le altre imprese, ma non è come se chiude un'impresa manifatturiera, perché la banca ha, perché ai nostri conti correnti, ai nostri depositi, ha prestato soldi all'impresa, ha un effetto sistemico, cioè di sisma. Allora, vediamo se almeno questo è chiaro. Giro invece la valutazione di quello che sta capitando a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Sì, buonasera a voi. Allora, ce la faranno a fare l'opzione spagnola? Cioè, magari non con una banca come Santander, ma con 3-4 banche grosse, tirar fuori questo 1,2 miliardi? L'impressione degli ultimi giorni è che non è ancora sfumata, e sì, nel senso che il discorso è quello che facevi prima tu, per cui si sono fatti i conti, l'alternativa sarebbe 11 miliardi spalmati obbligatoriamente tra tutto il sistema bancario, per cui un pragmatico pur francese come Moustier sembra aver preso in mano le cose dicendo il mercato capirebbe quest'ultimo sforzo. C'è anche da dire però che deve essere l'ultimo sforzo, e quindi si è aperta, diciamo, un nuovo versante con Commissione Europea e BCE, che sono le authority che devono comunque validare il piano in tutto il suo, in tutte le sue parti, compresa quest'ultimo tassello, quest'ultima toppa, diciamo così, da 1,2 miliardi. Probabilmente per questo servirà ancora qualche giorno. Noi sappiamo e da gennaio, diciamo tra fine dicembre, inizio gennaio, che questa trattativa va avanti sia sul Monte che con le Venete, sicuramente non sono particolarmente reattive le controparti a Bruxelles e Francoforte, quindi ci vorrà probabilmente ancora qualche giorno di pazienza. Sì, tu ricordavi come giustamente è Moustier che ha in questo momento rilanciato l'iniziativa, domani però c'è un consiglio di amministrazione importante, quello di Intesa, San Paolo, e oggi hanno commentato sia il presidente di Intesa San Paolo, Giammaria Grospietro, che invece il presidente delle fondazioni bancarie Guzzetti, a margine dell'Asso Lombarda, dell'Assemblea dell'Asso Lombarda. Devo dire una cosa, qualcuno continua a dirmi, ma insomma, allora è facile governare una banca, tanto hai... No, guardate, il fatto che la banca abbia questo valore sistemico è il motivo per cui la banca è vigilata dalla Banca d'Italia, o adesso nemmeno più le prime 10 dalla Banca Centrale Europea. Un'impresa non è vigilata dalla Banca d'Italia, non è vigilata dalla Consob nel caso la banca sia quotata. Se l'impresa è quotata, sì, ma la vigilanza c'è sempre, mentre l'impresa non ha nessuna vigilanza, se non, diciamo, la governance interna e ovviamente la correttezza dei bilanci. Qualcun altro mi scrive: bisognerebbe che ne fallisse una, così imparerebbero gli altri. Guardate che questo è il ragionamento che fu fatto mutatis mutandis con Lehman Brothers. Si disse negli Stati Uniti: facciamo fallire Lehman, così se vi ha da lezione. E lì è iniziato l'incubo, perché nel momento in cui fallisce Lehman, Bear Stearns prima, la corsa era quale sarebbe stata la prossima. L'America ha dovuto tirar fuori 1.200 miliardi di dollari nei vari piani TARP per salvare il sistema bancario, perché sennò tutti iniziano a dire: bene, se salta quella, quale sarà la prossima? Oltre al fatto che è un problema anche di ordine pubblico, ma voi vogliamo immaginare cosa capiterebbe alle migliaia di correntisti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza? Guardate che la CGA di Mestre ha calcolato come le due banche maneggino 62 miliardi di ricchezza complessiva e 42 miliardi di prestiti da aziende e famiglie, nel senso che 30 sono le aziende e 12 le famiglie. Si chiamano mutui oltre che prestito credito al consumo. Comunque, Guzzetti, come presidente delle fondazioni bancarie, e parla anche per Intesa sull'assemblea di Intesa, sul CDA di Intesa di domani, e poi Grospietro. Triveneto, chiedete ai veneziani. Ecco, è un problema nazionale. Il sistema bancario come? Darà una mano per la soluzione di questa grande crisi. Ma io non c'entro niente, scusi. Cosa c'entra? Noi abbiamo messo 538 milioni, altro che una mano abbiamo messo, due mani forse. E come si aspetta che potrà essere risolto? Aspettiamo, confidiamo nei manager che ci sono. Come mai è cresciuto così tanto negli anni, diciamo, questo problema? Gli allarmi ci sono stati? Chiederle a loro, non a me, io non c'entro niente. Ma chiedetelo ai manager, a questi, scusi, perché lo deve chiedere a me? Chiedetelo a Viola. Intesa a partecipare a questa soluzione di sistema per le Venete? Intesa a un ottimo amministratore delegato che sa cosa fare ed è sempre uno positivo sugli interessi del paese, quindi aspettiamo, aspettiamo. Noi parliamo per noi e ogni decisione dipende dalle condizioni che saranno poste dalle autorità europee, quindi la Commissione europea per quanto riguarda la concorrenza e gli aiuti, la questione aiuti di Stato, e la Banca Centrale Europea per quanto riguarda la ricapitalizzazione. È ovvio che qualunque intervento dipende dalle condizioni in atto e da quello che potrebbe succedere dopo. Quindi al momento non si può dire. Siete stati chiamati dal MEF, quantomeno a discutere di nuovo, almeno uno schema. Questo lo dovete chiedere al governo. Grazie. Senta, domani ne parlerete in consiglio, se ne parlerà o non è un tema? Non è un tema all'ordine del giorno, ma penso che se ne parlerà. Allora, vedo molti messaggi, Marco Ferrando, qualcuno mi scrive: le banche americane non hanno creato nessun effetto sistema. Ma cosa dice Ulisse? Basta disinformazione. Ma lei dov'era nel 2008? Noi eravamo qua in diretta quando dopo Lehman Brothers iniziava a saltare tutto e la gente iniziava a ritirare, aveva paura anche per i conti correnti in Italia. Ma che cosa sta dicendo? Basta, cioè, capisco scrivere, ma ogni tanto un po' di legame con la realtà, Ulisse, se questo è il suo nome. Detto ciò, altri mi dicono: vabbè, però se è così allora devono essere controllate veramente. E quante volte abbiamo criticato l'operato di Consob e della Banca d'Italia? Tutti e due si sono autoassolte alla grande. E il vero problema sulle vendite è arrivato quando Mario Draghi ha messo gli ispettori della BCE a controllare il valore del titolo e come erano stati comprati questi titoli, perché venivano dati i soldi per comprare i titoli da alcuni correntisti, perché venivano affidati soldi ad altri che erano a rischio, cosa che poi è venuto di non pagare, e via così, perché venivano fregati gli azionisti. Ultimo aspetto, mi dice: ma allora che paghino i manager? Certo, ma infatti che vadano avanti le azioni di risarcitorie nei confronti dei vertici, Zonin, Sorato e tutta la compagnia del CDA e quant'altro, e le azioni anche penali laddove i sindaci, il consiglio di amministrazione, i revisori contabili non abbiano visto quello che stava capitando, e per Veneto Banca, Consoli e tutto il gruppo di Consoli. D'accordissimo, infatti è assurdo che il GIP di Vicenza si rifiuti di andare a procedere per ostacolo all'autorità di vigilanza con Zonin, ributtandola a Milano, e Milano dice no, non è di competenza nostra. Detto ciò, Marco Ferrando, forse c'è qualcuno non si rende conto quale sarebbe lo scenario. Perché continuiamo a dire che oltre al danno per i 30 miliardi di prestiti alle imprese e 12 miliardi di prestiti alle famiglie, vi sarebbe un danno per il sistema bancario di altri 11-12 miliardi? Sì, perché le norme sul bail-in prevedono che comunque tutto quello che gli attivi della banca non sono in grado di coprire arrivi dal resto del sistema bancario, quindi per tutelare i famosi depositi sotto i 100.000 euro, che appunto sono tutelati, per cui se io ho 99.999 euro sul conto, anche in caso di bail-in quei soldi non li perdo, chi li mette? Prima si azzerano le azioni, poi i bond subordinati, e quando si esauriscono tutti gli attivi si passa tra le banche sane. Si è stimato che nel caso di Veneto e Vicenza un eventuale bail-in costerebbe 11 miliardi. E con l'effetto rischiosissimo in questo momento di peggiorare ulteriormente la situazione delle banche venete, lo ha detto lo stesso Viola, perché chiaro che più i correntisti sentono queste notizie e meno hanno voglia di tenere i soldi sopra i 100.000 euro, quantomeno, no? Ma sì, è così. Diciamo che noi settimana scorsa ci siamo sforzati di spiegare come mai il Banco Popolare la soluzione non sia praticabile per l'Italia, perché non c'è un Santander in Italia che abbia un qualche interesse a imbarcarsi in un'operazione del genere. Ma c'è un dato che vale la pena di ricordare: il Banco Popolare di fatto potrà curarsi, diciamo, tra le braccia del Santander, quindi potrà contare sulla solidità del Banco Santander per riprendersi da questa crisi. le due ex popolari venete, Veneto Banco e Popolare di Vicenza, quando anche andasse in porto, come bisogna auspicare, questo piano, comunque rimarranno da sole e quindi già così sarà non facile rimetterle in piedi, perché come giustamente dicevi è da mesi, parliamo da dicembre, ma comunque ormai è da anni che raccontiamo quotidianamente le vicende non positive di queste banche, quindi è da mesi barra anni che i clienti tendenzialmente si rifugiano in banche considerate più solide, e i prestiti non vengono dati o comunque vengono dati solo quelli certo, totalmente garantiti, che quindi non rendono nulla. Insomma, rimettere in piedi queste banche comunque già così non sarà facile. Sì, giustamente un ascoltatore mi scrive, ma qualcuno si ricorda che ci sono anche 10.000 dipendenti in queste due banche, quindi oltre ai risparmiatori, oltre alle imprese che hanno ricevuto prestiti, ci sono anche 10.000 dipendenti in un territorio relativamente piccolo, per quanto molto ricco, che va da Vicenza a Montebelluna, da Vicenza a Treviso. Questo è lo spazio di cui stiamo parlando. Comunque, grazie a Marco Ferrando, nella speranza poi di riaverti in collegamento con qualche soluzione, andiamo sul traffico. Focus Economia. Andiamo sulla borsa adesso, oggi giornata in cui per via delle preoccupazioni sui titoli tecnologici americani, di cui parleremo dopo il GR24, da noi va malissimo, ST Microelectronics meno 9,20%, legata proprio al mondo, produce semiconduttori, al mondo dell'information technology. Leonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Fermo restando che, come abbiamo già detto in apertura, spread invece e rendimenti delle obbligazioni sono sotto controllo dopo la battuta d'arresto, così alegge il mercato, dei 5 stelle in Italia. Invece Saipem più 5,20%, Ubibanca più 3,90% dopo i diritti, Poste Italiane più 1,80%, Generali più 1% come Unipol. E allora Saipem e Ubibanca nel giorno... Sì. Prego. Quelle che si sono messe più in evidenza, infatti, si sono messe sin dalle prime battute in evidenza Saipem e Ubi. Saipem perché ha rialzato la testa, fondamentalmente il prezzo del greggio, il WTI ad esempio sta salendo dell'1,3% dopo lo scossone della scorsa settimana, e quindi questo ha dato un po' in là gli ordini in acquisto, peraltro non solo su Saipem ma anche su Tenaris e sulla stessa Eni, che ha chiuso in progresso dello 0,4%, ma particolarmente su Saipem. Inoltre si scommette che siano in arrivo nuovi contratti soprattutto nel comparto eolico, e poi è ripresa l'attività di trivellazione in Nord America secondo gli ultimi dati, quindi questo dovrebbe portare beneficio all'attività proprio della stessa Saipem. Per quanto riguarda Ubi invece, oggi è partito l'aumento di capitale da circa 400 milioni finalizzato all'acquisizione delle tre Good Banks, e è un'operazione che piace al mercato. I titoli hanno chiuso in progresso del 3,87%, anche perché ricordiamo hanno imboccato la strada del rialzo la scorsa settimana dopo che sono stati menzionati nel dettaglio i termini dell'aumento di capitale. Ci si aspettava che le azioni di nuova emissione avessero uno sconto sul cosiddetto TERP, cioè sui diritti, sui titoli senza diritti, più consistente in linea a quello che è avvenuto con gli ultimi aumenti di capitale delle banche. Ad esempio Unicredit aveva lanciato titoli con uno sconto al 38%, invece Ubi lo sconto era del 26%, attorno al 26%, certo. Quindi tutto sommato molto più ridotto. Poi dopo il GR24 avrei concluso l'approfondimento di borsa con due titoli. Da un lato Cassa di risparmio di Genova, dopo quello che è successo venerdì il Consiglio di Amministrazione spaccandosi ha sfiduciato Bastianini, e poi cosa sta succedendo ad alcuni gruppi editoriali dopo che il gruppo Cartagino Editore ha lanciato il delisting, quindi vuole raccogliere le azioni portare fuori dalla borsa il titolo Cartagino Editore. Il titolo ha fatto più 21%, superando anche il prezzo offerto di 1 euro, ma ho visto muoversi bene anche RCS, Rizzorico della Sera, Media Group più 4,30, Visibile Editore più 37,25%. Ne parliamo dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere? Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché... Mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog, ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago. Dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vedo molti messaggi sulle banche venete. Allora, io posso capire, per carità, insomma, che non stiano simpatici i veneti. Qualcuno mi scrive, insomma, perché per anni hanno sputato sul resto d'Italia, vogliono l'indipendenza, andavano a delocalizzare a Timisoara in Romania, erano altri anni, e adesso vogliono il Veneto libero dall'Italia, allora perché dovremmo aiutarli? Guardate che il problema qui non è di solidarietà verso i veneti piuttosto che i lombardi, i piemontesi, in questo caso però i veneti. Il problema è il rischio sistemico su tutte le altre banche, non è solo quello, è sul lavoratore. Dopodiché, detto questo, la mia opinione personale è che ci sia un po' troppo silenzio tra gli stakeholders, cioè non gli shareholders, non gli azionisti, ma i portatori di interesse nel mondo veneto, anche in questo periodo. Cioè, tutto bene, però insomma, nel momento in cui si va a un referendum per l'autonomia del Veneto, forse una parolina, sentirla dire da chi ha ricoperto cariche istituzionali in questi anni su come sia stato possibile mandare in frantumi un sistema economico, diciamo bancario, non quello economico per fortuna tiene ancora, creando un danno del genere, già acclarato 12 miliardi di risparmi bruciati tra Vicenza e Treviso. Beh, forse un pochino di autocritica anche lì, oltre che della Banca d'Italia, oltre che della Consob, ma anche sul fatto che nessuno ha mai capito che Zonin e Consoli stessero creando il più grande crack bancario che quell'area geografica ricordi, e uno dei più grandi anche oltre a Monte dei Paschi di Siena della storia di questo paese, più grande come importanza di Etruria, Chieti, Ferrara e Marche. Lì c'è la componente politica per il ruolo del papà della Boschi, ma dico, forse prima di dire solo il Veneto ai veneti, no, ok, adesso però le banche che ti devono salvare, faccio notare che hanno, in questo senso si può raccogliere la provocazione, hanno, utilizzano risparmi, se ti salveranno, che vengono dalla Lombardia, dalla Toscana, dalla Puglia, dalla Campania, cioè sono banche nazionali, dal Piemonte, quindi attenzione, dall'Emilia. Quindi attenzione a dire il Veneto ai veneti, però poi quando i veneti ti fottono le banche e il risparmio, hai bisogno di soldi della nazione. Su questo possiamo seguire il ragionamento, fermo restando che sì, qualcuno mi scrive, se il Veneto fosse stato indipendente da 4-5 anni ci sarebbero i soldi per salvare le due popolari. Una grande cavolata. Guardi, vale il ragionamento fatto per Monte dei Paschi di Siena. Tutto questo orgoglio sulla senesità, le Siena, Siena di qua, Siena di là, Siena di su, Siena di giù, ha fatto sì che un insieme di interessi, anche forse non così trasparenti, più volte abbiamo citato la massoneria, hanno distrutto la più vecchia banca del mondo, che altro che tutto si tiene, nessuno guarda. Ecco, mutatis mutandis anche in Veneto. Zonin era considerato un grande banchiere, tutto si teneva, nessuno guardava, Consoli la stessa cosa, Allora, Eleonora Micheli, per concludere la borsa invece, dicevo dell'operazione annunciata di delisting del titolo Caltagirone Editore, cioè viene ritirato dalla borsa, viene offerto un euro per azione, che il valore di chiusura viene a dire a circa 80 centesimi, oggi lo ha superato però 1,01 euro, più 21%, e questo è il motivo per cui crescono anche RCS o Visibilia, RCS fa 4,30 e Visibilia 37, o sono altri motivi? Prego. Tutti i titoli che hanno sofferto negli ultimi mesi e soprattutto la scorsa settimana, dopo che erano usciti peraltro anche i dati sulla diffusione delle copie. Quindi oggi c'è stato un rimbalzo e si è innescato probabilmente anche dall'operazione di Caltagirone, anche perché ci si interroga se questa sia un'operazione che è un preludio ad eventuali altre operazioni o se sia un riassetto all'interno del gruppo dello stesso Caltagirone. Quindi questo ha riacceso senza dubbio comunque riflettori su tutto il comparto. Ancora i peggiori invece, ecco, Santec meno 17, Giglio Group meno 16, Safebag meno 15%, Exprivia meno 12%, Sabaf meno 10%, bene invece oltre ai titoli già citati anche Invest più 16,50 e Safilo Group più 4,20%. Grazie, Nora Micheli di Radio Colli, Sole 24 Ore. Allora, vedo che molti veneti mi scrivono, qualcuno mi scrive anche rinnegato. Allora, rinnegato in italiano vuol dire uno che rinnega la sua patria. Io ho il passaporto italiano e non ho mai rinnegato l'Italia. Dov'è che sarei rinnegato? Detto ciò, attenzione che quando il magistrato della procura di Vicenza, Cecilia Carreri, mi sembra che si chiamasse, scoprì le cause, fu dal procuratore capo di Vicenza, insomma, bloccata per questa serie indagine. Non è vero che qualcuno non stesse indagando, è che faceva comodo a tutti mantenere il sistema di potere, non a tutti, insomma, a chi il potere ce l'aveva, basta, balle. E l'altra cosa che mi continua a scrivere, il residuo fiscale dove lo mettiamo? Sono d'accordo, allora, sul residuo fiscale possiamo fare un'intera puntata, cioè quanto versano le singole regioni quando in tasse, quanto ottengono dallo Stato, che è la battaglia, diciamo, di Zai e Maroni per il referendum della Lombardia e del Veneto. Benissimo, ragioniamo di questo. Fermo restando che non si può neanche immaginare, è chiaro che ti deve ritornare qualcosa in più, sono d'accordo sia con Zai che con Maroni su questo, ma non possiamo immaginare che tutto quello che verso torni, perché altrimenti non ci sarebbe più nessun tipo di sussidiarietà, diciamo, con regioni che obiettivamente con quello che versano non si riescono a mantenere. Detto questo, faccio notare che al di là del residuo fiscale, se arriverà un aiuto ai correntisti, imprenditori veneti e dipendenti veneti di queste banche, arriverà dai soldi dei lombardi, dei piemontesi, degli emiliani, di tutti quelli che hanno il conto corrente in Intesa San Paolo, in Unicredit, forse in Unipol, forse in Mediolanum, ok? Perché noi continuiamo a fare sempre il Veneto regione, il Veneto Stato, su, quando poi finisci nella quella cosa che assomiglia alla cioccolata per gestione di manager, diciamo, veneti, devi chiedere aiuto agli altri, questo sto dicendo io. Poi sul residuo fiscale ne parliamo quando volete. Sentiamo come va invece il Nasdaq, se c'è Mario Platero da Sole 20, da New York in collegamento con noi. Mario, buonasera. Eccoci, buonasera. Buonasera. Allora siamo, nervosismo. Siamo nervosismo. Nasdaq è peggio degli altri indici, meno 0,71%, ma quello che conta, Sebastiano, è che l'indice tecnologico, diciamo quello che è rappresentativo, il cosiddetto FANG, è al di sotto dell'1,2%, cioè rappresentativo di Facebook, Amazon, Netflix e Google. Questo indice ha perso il 2,7% venerdì, sempre venerdì Apple ha perso il 3,9% e questi titoli sono vulnerabili. Perché? Perché Goldman Sachs ha pubblicato un documento in cui dice attenzione, perché i tecnologici hanno fatto una corsa sfrenata, danno l'idea che il rialzo degli indici sia stato un rialzo stabile, in realtà rischia poi di essere vulnerabile sull'intero indice. Perché? Perché i tecnologici, l'indice tecnologico ha guadagnato, pensa, da gennaio 8 il 18% e negli ultimi 12 mesi un guadagno del 30%. E allora, insomma, come dire, una pausa è doverosa. A questo punto ci si domanda come andrà a finire, perché è soltanto una crisi temporanea, una crisi di sfiducia che riguarda il tecnologico, oppure questa macchia d'olio si allargherà anche agli indici generali? Cioè, gli indici di borsa americani hanno fatto delle corse sfrenate, ricorderai quando ci siamo sentiti che c'erano record in continuazione uno dietro l'altro per giorni di fila. Allora, qualcuno come Ken Griffin, che è un grosso, come sai, gestore molto ascoltato di Chicago, dice no, attenzione che ci sono ancora spazi per la borsa per andare avanti. Però certo il nervosismo c'è, e qui non è una perdita dovuta a una notizia. Per esempio Per Apple la perdita è stata la più forte dall'aprile del 2016, ma in quel caso ci fu la notizia che il nuovo telefonino, il nuovo iPhone che avevano lanciato non funzionava come doveva e dunque c'era una ragione. Qua invece è un timore un po' più generalizzato. Ecco, l'unica rassicurazione è che in 12 mesi hanno fatto il 30%, poi se c'è una correzione del 3, del 4, del 5 e dall'inizio dell'anno del 18, voglio dire, quella può anche starci in attesa di capire cosa succede, sai, ci sono anche le riunioni delle banche. Ecco, però un'ultima domanda che ho per te, Mario, è un problema di, come si sarebbe detto una volta, corsi azionari, cioè i valori dei titoli sono ormai reputati troppo alti rispetto agli utili attesi o molto alti, si va un po' a vendere, o c'è una riflessione diversa sul modello di business, cioè sulla capacità di questi gruppi di fare ricavi e utile? Allora, per ora è la prima spiegazione, sì. Perché questi, in realtà, questi titoli, i titoli di cui ti parlavo, beh, il loro modello continua a funzionare, continuano a macinare profitti straordinariamente buoni. Problemi possono esserci magari per nuovi arrivati in borsa, ad esempio Snapchat, ti ricordi che ha avuto una quotazione certo, molto forte e poi è caduto perché ancora non faceva profitti. Possono esserci per Uber come sai in difficoltà, tra l'altro questa è una buona notizia per i nostri amici tassisti, perché so che non amano molto Uber, ma abbiamo saputo che Travis Kalanick, che è il fondatore, il cofondatore di Uber, sarà probabilmente licenziato dal board, perché è un personaggio, dicono, che non è in grado di esprimere leadership in un momento difficile per la società, per l'azienda. Quindi c'è questo elemento, però lui ha un valore personale di 6 miliardi di dollari, quindi non credo che si preoccupi più di tanto. Scusa, ti aggiungo un'altra notizia parlando di avvicendamenti, perché è importante, riguarda la General Motors. Sì. Jeffrey Immelt, amministratore delegato storico lì da 16 anni, è stato sostituito, cioè l'annuncio che sarà rimpiazzato da John Flannery, che è il capo della divisione sanità. John Flannery 55 anni, Immelt 61, non è una grande differenza d'età, però Immelt era lì da 16 anni e quindi insomma un cambiamento doveva esserci. Ecco, in questo caso il titolo ha reagito bene, più 4% per General Electric sulla notizia. Allora, grazie anche a Mario Platero. Andiamo sul traffico e poi commentiamo con chi lavora dalle sale operative di Londra la reazione dei mercati su spread e tassi di interesse italiani, BTP a 10 anni, tutta positiva dopo le amministrative. Vi prego, per fare, non è un giudizio sul voto, che uno piace nei 5 Stelle, piace il PD, piace Forza Italia, piace la Lega, non me ne frega nulla, noi ci occupiamo quando riusciamo dei fatti. I fatti sono che lo spread è sceso di 25 punti sostanzialmente a livello più basso da gennaio adesso, e il rendimento del BTP è andato al 2%, tra l'altro abbiamo collocato anche 1 miliardo di bot a un anno con un rendimento negativo storico come rendimento, il più basso da sempre per un bot a un anno, meno 0,35%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta anche video su Facebook. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Allora, no, qualcuno mi scrive anche del Mose, dello scandalo Mose, certo, quelli per esempio sono soldi pubblici, io lo dico perché bisogna stare attenti. Allora, il Mose lo paghiamo tutti gli italiani, i 6 miliardi che è costato, rubati secondo le accuse un po' tra Galan, presidente della regione Veneto, e Mazzacurati, Venetissimo, consorzio di costruzioni e tutto il magna magna che è venuto fuori dalle indagini, quelli li pagano gli italiani. Però attenzione, perché se iniziamo a caricare quelli più il danno fatto dai venetissimi amministratori di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, non so quanto resti del residuo fiscale. Poi se si vuole ragionare di un'operazione di residuo fiscale in cui le regioni più virtuose possono trattenere di più, io sono anche d'accordo, ma insomma, attenzione. Allora, effetto urne, dicevo, spread, qualcuno continua a scrivere, rinnegato, vabbè, non mi darete il passaporto della Serenissima Repubblica, che vi devo dire? 175 punti lo spread tra titoli italiani e tedeschi. Alberto Gallo, responsabile strategia e portfolio manager di Algebris a Londra, buonasera. Buonasera. Ma insomma, è così facile come la dicono le agenzie? Siccome i 5 Stelle non sono andati a ballottaggio e hanno avuto quella che tutti commentano come essere una battuta d'arresto, però la Lega si è comportata bene, mi sembra di vedere dalle proiezioni, il centrodestra bene, il PD, insomma, poi uno può dar giudizio che vuole, ma no, ecco, non è calato, non mi sembra che abbia avuto una grande crescita. Che cos'è che ha, tra virgolette, entusiasmato i mercati da portare lo spread a 175 punti, rendimenti così bassi nel BTP a 10 anni? Una combinazione di tre fattori. Allora, ricordiamoci che dopo le elezioni francesi l'Italia era diventata un po' il bersaglio di tutti gli speculatori, quindi dopo aver speculato su una possibile vittoria di Le Pen, gli investitori sono soprattutto non europei, si sono coperti sull'Italia, quindi sono andati a vendere i BTP e a comprare il Bund. Ma questo è stata una cosa fatta molto in massa e anche in anticipo, perché in effetti il rischio di elezioni rimane ancora lontano, forse a fine anno, ma più probabilmente l'anno prossimo. Quindi prima di tutto era un posizionamento eccessivo. Cioè, lei dice, erano troppo scettici prima e si sono riposizionati adesso, ho capito bene? Esatto, dopo essersi, sì, dopo essersi fatti male in Francia, speculando sulla possibile vittoria di Le Pen, che era sovrastimata in effetti dagli investitori, secondo noi dalle 3 alle 5 volte rispetto alle probabilità effettive, sono andati a speculare su una possibile vittoria del, diciamo, Parlamento diviso, oppure vittoria di una coalizione Lega Nord 5 Stelle in Italia, portando lo spread a 200 basis points. Detto questo, cosa è successo? Che l'ECB la settimana scorsa è rimasta pro stimolo, quindi la Banca Centrale Europea, Mario Draghi, la Banca Centrale Europea, certo. Poi abbiamo avuto queste elezioni che comunque hanno dei risultati ragionevoli, diciamo non preoccupanti per gli investitori, e poi comunque l'elezione francese generale italiana si sposta, si farà probabilmente l'anno prossimo, e come dicevi l'elezione francese parlamentare ha dato a Macron un ampio consenso. Insomma, abbiamo molti euroscettici che spesso vivono fuori dall'Europa ma investono l'80% del capitale dei fondi gestito dall'America o dal Regno Unito, che molto volentieri spesso vanno a speculare sul rischio politico in Europa. Paradossalmente quello che abbiamo visto è che il rischio politico è più alto in America e nel Regno Unito, che sono i paesi che proprio... Guardate cosa è successo oggi nel Regno Unito, addirittura annullato il discorso della regina, nel senso, il Regno Unito, come dicemmo tempo fa, rischia di pagare non tanto le conseguenze dirette della Brexit, quello farà parte delle trattative, vedremo quale sarà l'accordo che si raggiungerà con Bruxelles, ma quando un paese è tutto concentrato sulla Brexit perde di vista il resto, un po' come l'Italia che ormai è in perenne campagna elettorale, no? Qui tu non riesci mai a fare una pianificazione a 4-5 anni di politica. Ecco, la Gran Bretagna rischia un po', a mio avviso, la sindrome italiana, cioè tu tutte le energie, tutta l'attenzione, tutto il dibattito politico, tutto su tutto è concentrato su sta Brexit, ti dimentichi del resto del paese. Comunque, secondo lei, per concludere, Gallo, questo vuol dire che, visto che adesso non abbiamo altri appuntamenti se non la data delle elezioni, ammesso che trovi un nuovo accordo sulla legge elettorale, vivremo mesi un po' più tranquilli, almeno d'estate, tanto ormai a settembre è impossibile votare, Renzi aveva proposto forse novembre, ma tutti la vedono un po' difficile anche novembre. Lei ritiene che saranno più tranquilli i prossimi mesi? Sì, credo che sullo spread sarà più tranquilla, e rimane comunque una grande posizione contro l'Italia da parte degli investitori che la stanno prendendo in faccia, perché appunto i mercati sbagliano anche loro, di rischi non ce ne sono, sbagliano anche loro, esatto. Ma più fondamentalmente dobbiamo riflettere sul fatto che appunto i modelli del capitalismo neoliberale estremo, dove quindi c'era questo credo nel mercato come unica soluzione, con poco welfare, poca sanità, poca assistenza sociale, che sono Regno Unito e Stati Uniti, sono poi i paesi che sono diventati quelli a più forte diseguaglianza sociale, e dove il populismo ha trovato terreno fertile. Lo dice però, a me che vengo accusato di essere un keynesiano, sì. E qui piove sul bagnato, si figuri. Io sono d'accordissimo che toccare la riforma di Obama in quel modo per destinare i soldi alle armi sia un errore clamoroso da parte di Trump. E anche insomma in Gran Bretagna l'affermazione di Corbyn, ditemi voi come cavolo va letta, se non come un desiderio di protezione delle classi che sono più a rischio dopo quelle uscite infelici della May sulla, diciamo, l'assistenza in caso di demenza senile. Ma insomma l'indicazione mi sembra molto chiara. Comunque, grazie intanto a Gallo per la parte dei mercati, per averci ricordato che chi nel mondo anglosassone si era posizionato già contro l'Italia oggi l'ha presa male. Grazie anche a lei, da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata e non ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.